La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta alle 16.37 primi qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo di versione di Oscar @radio24.it. naturalmente vi dà appuntamento e vi ricorda anche domani mattina in diretta 2 ore, dalle 10 alle 12, con i Conti della Belva, con Carlo Alberto, Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso e il sottoscritto. Vedrete che domani vi faremo divertire, per così dire. Intanto oggi il tema della puntata, il numero di telefono per intervenire 800 24 0024 e come sempre gli sms 349 238 6666. Visto che spesso si dice che parlo solo di cose negative, oggi una cosa positiva. È una trasmissione dedicata a colui il quale, lui e quelli insieme a lui, che si sono dati da fare perché questa cosa positiva arrivasse, o meglio dire entrasse, nella legge di stabilità. È stato approvato in commissione bilancio un emendamento, quindi dovrà andare anche in aula, però insomma c'è già l'accordo. E questo emendamento, anche nella legge di stabilità di quest'anno, come quella dell'anno scorso, si deve all'impegno dei parlamentari dei 5 Stelle, e in particolare tra di loro, che hanno condiviso questa proposta, a un parlamentare che oggi nostro ospite e che secondo me va additato come esempio, perché è da norme come queste che un bel po' di gente forse eviterà di chiudere, forse, ma intanto ecco, norme così servirebbero. E prima di presentarvelo, due rapidissime osservazioni sui fatti del giorno. È confermato che avremo il canone RAI in bolletta elettrica. Io da adesso, ma ci torneremo domani, vi dico che voglio divertirmi nel vedere i gestori del servizio elettrico che diventano sostituti d'imposta e contro i quali lo Stato si rivarrà in caso di evasione. Voglio vedere l'Enel e tutti gli altri contro i quali lo Stato dirà: siete, è colpa vostra se mi mancano dei soldi. Una cosa mai vista, che in bolletta elettrica vadano imposte diverse da quelle che già fanno parte troppo elevate della tariffa. Secondo, voglio vedere chi si metterà a discernere a quel punto le utenze intestate ai proprietari di case rispetto a quelle degli affittuari, visto che come sapete molte volte non è affatto distinto. Voglio vedere chi distingue le utenze plurifamiliari nell'ambito di uno stesso nucleo familiare a nomi diversi, quelle tra prime e seconde case. Io prevedo un caos incredibile, magari mi sbaglio, vedremo, ne parleremo ancora domani. E comunque anche un'osservazione da parte mia sul fatto più rilevante del giorno, su cui i giornali aprono, cioè lo scambio di battute, la dichiarazione uscita dalla bocca di Landini nella manifestazione a Napoli, per la quale gli onesti non stanno con Renzi, che era una risposta peraltro a una battuta di Renzi che diceva con me stanno quelli per bene. Ecco, la mia opinione è netta: un uomo pubblico, sindacalista, politico, secondo me non può dire mai in nessun caso che con lui stanno i per bene, come ha detto Renzi per primo, e con gli altri i per male, e tanto più dire che con lui stanno gli onesti, cioè Landini, e con gli altri disonesti. Perché quando si arriva a dire questo si scambiano le proprie idee per la legge, capite? Cioè chi non condivide le proprie idee è un disonesto, quindi è fuori legge. Secondo me è questa maniera di fare e parlare, scambiare le proprie idee con la legge, che rende fuori legge. Quindi questa è la mia opinione netta. Nessuno può avere titolo per dire chi sta con me è onesto, chi non la pensa come me è disonesto. Io la metto così. E come vedete, non mi limito a dire di Landini, mi limito a dire che anche il politico Renzi secondo me ha sbagliato nettamente a dire chi sta con me per bene, e quindi sottinteso chi invece critica non è per bene, perché non è possibile ragionare così. Ma veniamo al punto del giorno. Nella legge di stabilità, ripeto, grazie al parlamentare dei 5 Stelle, entra anche quest'anno la possibilità di compensare le cartelle erariali, cioè un'obbligazione fiscale che è già un titolo esecutivo nelle mani dello Stato, con i crediti fiscali. Quindi chi vanta crediti fiscali a quel punto può compensarli. E con noi il parlamentare gruppo 5 Stelle, che insieme ai suoi colleghi si è impegnato perché questa norma entrasse in legge di stabilità, e nel salutarlo lo ringrazio a nome di tanti. Si chiama Mattia Fantinati, è già stato con noi l'anno scorso. Buon pomeriggio e grazie onorevole. Buonasera Giannino, grazie per la presentazione e buonasera a tutti gli amici di Radio 24. Allora, spieghiamo in cosa consiste questa cosa e se è stato facile farla passare. Ma diciamo che è una nostra battaglia di sempre, da quando ci siamo seduti un po' anche inesperti, ci passi nel Parlamento. Chi vanta dei crediti verso la pubblica amministrazione, qualsiasi natura, può compensarli con le cartelle esattoriali. Quindi una norma, diciamo, di buon senso e anche abbastanza semplice. Il Corriere, il Sole 24 Ore dell'anno scorso ci aveva detto che era un po' l'uovo di Colombo. Mi perdoni, una steccatina ai nostri politici che si dicevano i grandi tecnici, i grandi professori, ma ci è voluto il Movimento 5 Stelle. E sta di fatto che neanche quest'anno c'era in legge di stabilità. Infatti, e infatti si prova che certe volte forse sarebbe stato molto più facile copiare le cose. Comunque, detto questo, volevo fare un piccolo excursus, perché la cosa ha quasi un po', diciamo, dell'incredibile, perché è stata una nostra battaglia e, come ha ricordato lei, l'anno scorso è stato approvato. Era stato però approvato, noi l'avevamo chiesto in modo strutturale, era stato approvato dopo un rocambolesco, diciamo, battibecco tra la Ragioneria di Stato, la Commissione Bilancio, perché doveva essere a costo zero, eccetera, eccetera. Era stato approvato, però mancava che cosa? Il decreto attuativo. E lei ride. E all'epoca, pensi che ne mancavano 800, giusto per dare dei numeri. A questo punto, dove sempre in quell'emendamento si raccontava che il MES e il MIR dovevano farlo entro 90 giorni. Chiaramente questi 90 giorni non sono stati rispettati, è stato fatto qualche settimana fa, penso 3-4 settimane fa. Eh beh, lo Stato, sì, i tecnici dello Stato, perché in questo caso neanche i politici, i tecnici dello Stato, esatto, si autotutelano, per così dire, rispetto a pensare che un diritto che la politica ha deciso un anno prima va garantito nei termini previsti, e no, e invece si aspetta un anno. Quindi diciamo che per quest'anno le aziende potevano compensare. Quindi la struttura era tutta in piedi, decreto attuativo fatto, emendamento fatto, legge fatta, e noi quindi, diciamo, da chi pensa sempre alle imprese, abbiamo chiesto che in questa legge di stabilità la cosa diventi strutturale, visto che abbiamo anche fatto, diciamo, delle prove di sperimentazione e sono andate bene. Secondo noi questo deve essere una cosa strutturale. E quando avete proposto in commissione di renderlo strutturale, non solo di finanziarlo per un anno, la risposta qual è stata? È stata che sicuramente era una buona cosa e ci avevano detto che avrebbero dato parere favorevole. Infatti il giorno stesso, alle 9 della mattina circa, questo emendamento doveva passare, perché sembrava che avesse il parere favorevole sia, diciamo, della maggioranza e sia anche del governo. E poi? E poi il governo ha fatto una piccola riunione, infatti è stato accantonato, quindi è stato messo, diciamo, per un attimo in stand-by. Infatti avevo chiesto perché se una cosa piace a tutti ed è parere favorevole, vediamo perché dobbiamo metterlo in stand-by. Comunque è stato così, si sono riuniti e ce l'hanno riformulato, cioè hanno detto che loro lo accettano soltanto per il 2015, cioè fanno un altro step di un altro anno. Perché come al solito la ragioneria avrà detto: se io lo devo accettare strutturalmente devo dare una copertura pluriennale e non mi fido, perché io devo pensare ai saldi, che me ne fotte di quello che vota il Parlamento, perché tanto io vi dico di no e voi dovrete fare di no. Forse adesso io, diciamo, sono, che è andata così. Io sono colorito, però la sostanza è questa, insomma, ecco, non è che guardi, io adesso non lo so perché non c'ero, ma allora qui, diciamo, se volendo fare una polemica politica si avrebbe potuto dire: no, noi chiediamo di votarlo così, spiegate voi come maggioranza, come governo, che agli imprenditori non lo fate per tutti gli anni. Però detto questo, a noi ci interessano le cose concrete, ci interessano le imprese, chiaramente abbiamo accettato. Beh, vorrei dire che l'anno prossimo ci ridiamo appuntamento, perché tanto finirà così anche l'anno prossimo, sperando che l'anno prossimo poi e anche quest'anno, perché naturalmente deve essere votata in aula, lo riapprovino. È ovvio che però, scusate cari ascoltatori, voi capite che quello che dovrebbe essere una cosa normale e naturale, la compensazione tra quello che lo Stato chiede quando lo Stato ha dei debiti, no? Nei confronti di colui al quale chiede di ottemperare giustamente l'obbligo fiscale, questa cosa elementare viene data come una concessione di anno in anno, invece che diventare un criterio fondamentale, ma strutturale, ordinario del rapporto fiscale. Questa per me è una cosa che la dice lunga su che cosa? Sul fatto che è asimmetrica il rapporto tra lo Stato e il contribuente e i cittadini. Anzi, quando la politica, addirittura con la proposta dell'opposizione, ma la maggioranza è costretta a dire: beh, certo, è una cosa di buon senso, no? Mica vogliamo farli chiudere per forza queste imprese e i loro dipendenti e mandarli a casa. anche in quel caso i tecnici del Tesoro dicono no, un momento, per il momento la concediamo, poi se ne vedrà. Ecco, questa per me è una cosa totalmente incomprensibile, non riguarda solo questo, è il problema della compensazione. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione sulle strade, poi ci torniamo con Matteo Fantinati del 5 Stelle. Dovrebbe essere ancora più esteso di quanto non ve lo concedano col contagocce, grazie ai 5 Stelle e anche alla maggioranza, anche quest'anno, come state sentendo. Intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare in diretta, 16:48, 50 secondi di questa norma che a questo punto con il sì della Commissione Bilancio entra in legge di stabilità per la compensazione tra cartelle erariali, quindi un obbligo di ottemperanza fiscale con un titolo esecutivo in mano allo Stato nei confronti del contribuente, ma quel contribuente vanta un credito con lo Stato e quindi principio elementare si può compensare grazie all'iniziativa dei parlamentari dei 5 Stelle. La mia opinione personale, questo chiedo a Matteo Fantinati, deputato dei 5 Stelle, a cui si deve la sua iniziativa e ai suoi colleghi questa norma che entra in legge di stabilità, è che questo principio, cioè della compensazione automatica tra debiti e crediti, cioè tra quanto devo pagare di tasse, ma avendo un titolo in mano di un credito che vanto nei confronti della pubblica amministrazione, per me dovrebbe diventare ordinaria. Faccio un esempio concreto. Il governo dice, ormai da 2 mesi, di aver risolto il problema integralmente del pagamento dei debiti commerciali alle imprese da parte della pubblica amministrazione. Il governo dice: noi abbiamo stanziato un bel po' di miliardi, la metà, meno della metà di quello che diceva Banca d'Italia, per noi il problema è risolto. Se c'è gente, come c'è gente, noi qua riceviamo pacchi di lettere, di sms, di mail, di microimprese, artigiani, medie imprese che dicono no, noi veramente continuiamo a non essere pagati, il governo dice prendetevela con gli enti locali che non pagano, noi i soldi li abbiamo stanziati. La mia opinione è che a quel punto tutti quelli che ancora non sono stati pagati, fattura alla mano, la allegano e hanno diritto alla compensazione fiscale, perché se il problema a quel punto è dell'ente pagatore che o perché non l'ha dichiarato nelle spese di competenza o per altri problemi di inefficienza dice il tesoro che i soldi sono tutti stanziati, beh allora intanto io che lo Stato delle soldi compenso nel mio rapporto fiscale direttamente con lo Stato, e poi lo Stato, visto che ha stanziato i soldi, a quel punto si rivarrà, perché tanto i soldi dice di averli stanziati. Sarebbe giusto o sbagliato secondo Matteo Fantinati questo meccanismo? Ma diciamo che la filosofia che ci sta dietro la trovo molto corretta. Dopo tecnicamente bisognerebbe iniziare verificare, un po' a certo. Sistemare delle cose, perché adesso è possibile farlo per i debiti e i crediti della stessa natura fiscale. Esatto. Mentre diciamo così fatto andrebbe un attimo studiato, però è sacrosanto il principio, perché se lo Stato d'Italia è il peggior pagatore d'Europa, e addirittura 6-7 mesi fa Tajani voleva aprire una procedura di infrazione, questo significa che come fa a chiedere alle proprie aziende che devono essere regolari? Bravo. Ma soprattutto anche questo, come fa ad attirare aziende straniere se non c'è questa certezza? Quindi io mi chiedo, ma è possibile che, lasciamo stare Renzi che forse lui deve fare le sue sparate politiche, ma neanche il MEF sa esattamente quanti sono questi crediti? Esattamente. La Banca d'Italia ha previsto che dei 90 miliardi, quelli di un anno e mezzo fa, ne siano rimasti da pagare ancora 30. Tuttavia c'è chi, come la CGA di Mestre, dice attenzione però, perché voi quei 90 miliardi li avete calcolati non tenendo conto delle aziende sotto i 20 dipendenti, che sono oltre il 94% di tutte le aziende sul territorio nazionale. In realtà sono molti di più, si parla di 120-130 miliardi, insomma nessuno sa quant'è. E come diceva lei prima, il problema non è quanto lo Stato ne ha pagati, ma quanto le aziende ne hanno ricevuto. Incassati, esattamente. Anche perché, e io glielo dico, io avevo una piccola aziendina di ingegneria, quindi ho anche avuto a che fare con la pubblica amministrazione, si creano delle forme anomale, chiamiamolo aberranti, un po' di borderline, dove siccome la pubblica amministrazione non riesce a pagare, sa già che non riesce a pagare nei tempi, diciamo, in cui dovrebbe, quindi fa delle fatture in ritardo rispetto allo stato avanzamento lavori, oppure addirittura ci sono dei contratti che chiedono che in caso di ritardo non vengano applicati gli interessi di mora, oppure che in caso in cui la pubblica amministrazione capisca che non riesce a pagare possa rinunciare al appalto. Allora quello che dico è, mi lasci dire, oppure anche l'ultimo caso, il peggiore secondo me, dove molte aziende che lavorano con la pubblica amministrazione devono essere in regola con il DURC, quindi con la contribuzione verso i contributi. Quindi loro che cosa fanno? Preferiscono, pur di essere in regola col DURC e continuare a lavorare nel settore pubblico, magari non pagare tutta l'IVA e quindi cadere in un reato penale. È così. A questo punto quello che si dice, io credo una cosa, a parte che quando io, e mi permette la battuta, io ho chiesto in aula come mai non lo rendono strutturale, loro mi hanno detto perché non sono questi gli strumenti, perché sarebbe come ammettere che noi abbiamo un'anomalia, non possiamo fare una legge su un'anomalia, e gli ho detto guardi. No, ma il bello è che per non ammettere che ci sia un'anomalia si fa finta che non sia un'anomalia, questo è stupendo da parte della pubblica amministrazione. L'Italia si fa in questo modo, allora ho detto guardi, un'azienda su tre chiude per crediti verso la pubblica amministrazione, 13.000 aziende hanno chiuso per questo motivo l'anno scorso, io credo una cosa, che le aziende italiane non chiedano né elemosina e né favori dallo Stato, ma che gli si venga dato quanto dovuto, e uno Stato che non paga ha la stessa credibilità dei politici che lo governano. Io sono totalmente d'accordo con lei, spero che nel corso di questo anno questo meccanismo si estenda, se no alla peggio sa da chi venire in trasmissione per vedere se anche l'anno prossimo saremo fermi sempre allo stesso posto. Lo so, sono arrivate un mucchio di telefonate, tutte sulla faccenda RAI, perché iniziate a rendervi conto che saranno problemi, ne parliamo domani. Ai conti della Belva dalle 10 alle 12, continuate intanto oggi su Radio 24.